9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì e naturalmente come tutti i venerdì io ho qualche esitazione nel giorno, ma è il 15 di gennaio, ora me lo ricordo. Il tema della giornata è un tema un po' caldo, è un tema caldo nella comunità economica e non ancora nei lettori dei giornali, negli ascoltatori di giornali radio e di telegiornali, perché è ovvio che la priorità delle notizie vada ancora al sisma di Haiti, vada agli sviluppi poi della politica anche nel nostro paese. Però negli Stati Uniti, nella comunità economica, finanziaria e soprattutto bancaria, sono giorni caldissimi, perché il presidente degli Stati Uniti ieri, al secondo giorno di lavori della commissione di inchiesta che è stata incardinata per appurare le cause della crisi a oramai 15 mesi dal salvataggio di Lehman Brothers, che in pochissimi giorni riverberò sull'economia reale con un abbattimento a doppia cifra del commercio mondiale e quindi delle attività reali economiche, la crisi finanziaria che serpeggiava sui mercati dall'estate 2007, risultato la più grave crisi nel secondo dopoguerra. Ecco, a distanza di 15 mesi questa commissione di indagine si è riunita, inizia a riunirsi il Congresso americano con degli hearings, cioè con delle deposizioni e delle testimonianze che vengono rese dai protagonisti del mondo bancario americano e del mondo finanziario americano e i congressmen, i parlamentari che fanno domande ficcanti, e il Presidente degli Stati Uniti fin dal secondo giorno ha dato un segnale fortissimo. Che cosa ha dichiarato? Ha dichiarato: cari signori banchieri, l'amministrazione americana ha fatto il suo dovere nei vostri confronti e soprattutto naturalmente nei confronti dei depositanti, cioè dei risparmiatori, che vi avevano dato un po' incautamente tantissimi miliardi di dollari con le loro tasche. E quindi al 31 dicembre del 2009 il TARP, cioè questo strumento straordinario con i denari dei contribuenti che l'amministrazione americana aveva avviato per tentare di fronteggiare l'ondata di sfiducia che si era diffusa sul mercato finanziario e interbancario, ha fatto il suo dovere. Dice il presidente americano: noi al 31 dicembre del 2009 il TARP lo abbiamo praticamente chiuso, utilizzando degli oltre 700 miliardi di dollari che erano destinati a tappare le voragini nel mondo bancario e finanziario, ne abbiamo utilizzato oltre 200 miliardi per la bellezza di 700 banche e istituzioni finanziarie nel nostro paese. Il resto poi lo abbiamo dovuto utilizzare per altri intermediari finanziari, assicurazioni come il caso di AIG, grandi imprese finanziarie come Freddie Mac e Fannie Mae, che davano mutui, anche mutui al oltre il 100% del valore delle unità immobiliari che garantivano e così via. Noi abbiamo, dice il presidente americano, evitato il crollo dell'industria bancaria e finanziaria americana, ed è quella poi che è leading e dominante nel mondo. E voi in cambio, cari signori banchieri, e voi cosa fate? Voi continuate ad accumulare dei bonus osceni, li ha definiti osceni. Vi date troppi soldi, mentre nel 2009 avete retto grazie al denaro del contribuente. Di quanti soldi stiamo parlando? Ecco, si calcola che nel 2009 l'industria bancaria e finanziaria nel mondo americano e anglosassone, quindi io non ci comprendo dentro il mondo delle grandi banche europee, preveda di assegnarsi, da quanto è stato dichiarato, da quanto si è visto nel procedere delle trimestrali del 2009, ma l'ammontare di risorse, di bonus e fees che più o meno è ragionevole pensare si mettano in tasca i banchieri e i quadri delle banche ammonta a oltre 200 miliardi di dollari. Di questi 200 miliardi di dollari, oltre 23 miliardi di dollari da soli se ne mettono in tasca i capi e i quadri bancari di Goldman Sachs. Allora, di fronte a questi bonus e fees, il mondo occidentale, quello stesso mondo occidentale anglosassone che aveva dato una svolta un anno e mezzo fa dicendo ci deve pensare lo Stato a salvare le banche dopo la sfiducia del fallimento di una Lehman Brothers mentre tutte le altre si salvavano, e analoghe misure sono state assunte col denaro del contribuente non solo in America, non solo in Gran Bretagna, non solo in Islanda, non solo, ma anche nell'Europa continentale, perché noi abbiamo assistito a un'ondata di ingresso delle banche, dell'ingresso dello Stato nel capitale delle banche e di sostegno comunque finanziario dello Stato nei confronti di banche è avvenuto in Francia, è avvenuto in Belgio, è avvenuto in Olanda, è avvenuto in Germania, quindi è un problema che riguarda anche noi. E al di là di tutto questo, quello stesso mondo dice oggi: cari banchieri, se voi non volete capire che bisogna essere focalizzarsi su attività tradizionali con meno rischio e a quel punto anche mettersi meno soldi in tasca, lo Stato dà un'altra svolta. Non solo ha dato i soldi dei contribuenti per salvare gli istituti bancari e gli intermediari finanziari, ma lo Stato adesso ve li chiede indietro. E qual è la seconda novità di Obama di ieri? Dire, oltre che i bonus sono osceni, che l'amministrazione americana presenta in Congresso una grande proposta di tassa sulle banche. Poiché l'amministrazione americana dice i 200 miliardi di dollari che abbiamo dati alle banche avranno di qui a 10 anni 90 miliardi di dollari di passivo a spese del contribuente, quindi inciso, si diceva che lo Stato ci avrebbe guadagnato, come vedete non è vero, chiuso l'inciso, allora lo Stato, ha detto il presidente americano, vuole in cambio 117 miliardi di dollari entro 12 anni. E questi 117 miliardi di dollari, per farvi capire che non siamo cattivi, ma vogliamo che riorientate il vostro business, cari banchieri, noi faremo in modo di modularle come tassa in maniera tale che colpisca di più. Quali banche? Le banche che fanno l'attività tradizionale e prestano a famiglie e imprese? No, le banche che hanno tra i loro attivi più prodotti finanziari e le banche che fanno il più dei ricavi e dei propri utili da intermediazione finanziaria, da trading book si chiama con gergo tecnico, invece che dagli impieghi ordinari alle famiglie e alle imprese. Perché, dice il presidente americano, voi in realtà, cari grandi banchieri americani, continuate a, virgolette, testuali parole, sottrarre al mercato americano dei prestiti almeno 1.000 miliardi di dollari, chiuse virgolette. Cioè è la politica che dice ai banchieri, vedendo i loro impieghi, non ci piace quello che state facendo e siccome continuate a fare come prima più attività da trading finanziario, finanza sintetica, prendete il denaro in prestito negli Stati Uniti o in Europa che costa zero o negativo e correte a impiegarlo nei paesi invece, si chiama carry trade o carry forward in gergo tecnico, nei paesi in cui c'è un elevato tasso di interesse, i paesi emergenti, Brasile c'è il 9%, è ovvio che sono bravi tutti a prendere 1 miliardo di dollari in prestito a 0% di interesse in America, impiegarlo immediatamente in Brasile e ti fai 900 punti base in più perché il tasso di interesse è più elevato, ci metti poi il tuo tasso di interesse sugli impieghi che vai a fare in Brasile più o meno reali o più o meno speculativi, è ovvio che ti fai 10-12 punti di tassi di interesse a spese di chi te lo dà gratis. Questo è il ragionamento della politica. Dice, cari banchieri, visto che voi continuate a fare così, allora lo Stato vi ha aiutato, ma lo Stato adesso vi bastona. Fine del mio pistolotto iniziale, fatto con un gergo non tecnico, fatto per dare l'idea a chi ci ascolta che il problema non riguarda solo gli Stati Uniti. Qualche mese fa la Gran Bretagna, cioè il paese europeo in cui si concentra il più dell'intermediazione finanziaria, era la grande ricchezza dei servizi della Gran Bretagna rispetto a tutta l'Europa, anche lì i leader del governo laburista hanno detto, cari signori, troppi bonus, noi vi introduciamo una tassa del 50% per tutte le banche, non individuale, ma per tutte le banche sul totale dell'ammontare dei premi ai banchieri, 50%. Le banche britanniche, di fronte al terrore che l'attività bancaria andasse via da Londra, dove è già molto in crisi, per andare in paesi dove questa tassa non è ancora stata proposta, si sono iniziate a organizzare, per cui iniziano a destinare buona parte di questi bonus attraverso fondi dotati di beneficenza e così via. Ma è un problema che riguarda l'intera industria bancaria mondiale, perché il mondo anglosassone, tanto nei suoi eccessi, quanto nei suoi spropositi, quanto per aver acceso la crisi, quanto poi perché lo Stato lo ha salvato e oggi lo Stato dice vi bastono se non cambiate, ci dà un pochino il rumore di fondo del problema ancora aperto a tanto tempo di distanza dall'inizio della crisi. E questo problema è: si continua a fare come prima? Domanda che noi facciamo ai nostri ospiti che vado a presentarvi, cioè le regole non sono cambiate per niente e quindi prendersela con le banche che continuano a fare come prima per fare utili o prendersela con le regole che non sono cambiate? Secondo, i banchieri devono inseguire l'utile, come tutte le imprese, a maggior ragione quando sono in crisi e devono rafforzare i loro bilanci, ma allora bisogna bastonarli perché si prendono troppi soldi e fanno troppi utili con attività non tradizionali, o bisogna incoraggiarli invece a rafforzare gli utili e a quel punto chiudere un po' un occhio anche se si mettono troppi soldi in tasca? Terzo, le tasse alle banche per attività diversificata, per risultati e per utili. Sono un meccanismo sano, morale, attraverso cui lo Stato, che gli ha dato i nostri soldi, esercita una differenza, un criterio distintivo, spingendo così le banche a fare meglio, o sono invece l'ennesima improprietà di un regolatore che ha sbagliato in precedenza, ne è venuta la crisi, non distinguendo i tipi di attività e non incentivando le banche, e adesso vuole usare il bastone per differenziare banche, la cui invece unicità di visione dipende da decisioni che aveva assunto la politica e il regolatore, perché le Glass-Steagall Act che distinguevano banche commerciali e banche di investimento è stata la politica ad abolirle, come noi ne abbiamo abolito nella nostra legge bancaria per adeguarci alle direttive europee. Ecco, questi tre interrogativi di fondo sono tre dei punti basilari perché anche voi, l'ultimo dei risparmiatori, ma soprattutto i molti imprenditori che ci ascoltano e che lamentano restrizioni di credito, che sono reali, perché i dati di BCE ci dicono che abbiamo chiuso il trimestre 2009 con un M3 e con impieghi bancari in contrazione di più dell'1,2% nella media dell'euroarea. Ecco, tutti voi che avete toccato con mano la restrizione di credito, è giusto che sentiate questi tre interrogativi apparentemente molto tecnici e complessi, ma che riguardano il fondamento di ciò da cui la crisi è nata, cioè l'intermediazione finanziaria e come si fa a riorientarla. Introduzione troppo lunga, d'ora in poi taccio, vi presento i nostri ospiti di oggi. Abbiamo collegati con noi il professor Franco Bruni, che insegna teoria e politica monetaria internazionale. Buongiorno professor Bruni. Buongiorno. Abbiamo Alessandro De Nicola, che è il presidente della Adam Smith Society, lo conoscete perché spesso lo utilizziamo, è anche editorialista del Sole 24 Ore per un punto di vista filo mercato e filo liberista. Alessandro De Nicola, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo il professor Donato Masciandaro, che insegna economia politica alla Bocconi. Buongiorno. Buongiorno. E Stefano Cingolani, editorialista del Foglio e Panorama. Quattro ospiti con competenze serie. Dunque, io taccio e inizio con Cingolani, che è in treno e tra poco ci deve lasciare. Ti chiedo solo questo: l'impressione che hai da osservatore da molti anni della politica americana e delle svolte di politica americana, che cosa ti fanno pensare? L'amministrazione riuscirà a ottenere questa svolta in congresso? Uno. Due. Come reagiranno le banche americane rispetto a questa politica che loro hanno molto finanziato e che fino ad oggi le regole non gliele aveva cambiate? Che pensi? Stefano Cingolani, mi pare di capire che è già caduta la linea. Allora, io questa stessa domanda la giro in maniera meno politica, ma in maniera più tecnica, invece al professor Bruni. Lei pensa che questa svolta della tassazione abbia che tipo di ripercussioni sull'impostazione dell'attività di intermediazione americana? Cominciamo dal mercato americano innanzitutto, poi allarghiamo la visuale. A me sembra un'uscita un po' pasticciata e populistica. Se mi permette, volevo cominciare da dove ha cominciato molto giustamente lei, cioè il lavoro della commissione parlamentare, che invece è una cosa molto seria e noi dovremmo imitarle, queste commissioni che fanno, diciamo, inchieste. Obama doveva aspettare, doveva lasciare che le conclusioni della commissione arrivassero alla fine e spiegassero le responsabilità, che non sono solo delle banche ma anche delle autorità che verranno anche interrogate. Credo che l'idea di una tassa diciamo sulla dimensione delle banche, che abbiamo visto è un po' un problema, e sul tipo di indebitamento delle banche, cioè privilegiando le banche che hanno, diciamo, molti depositi normali e molto capitale, e invece sfavorendo le banche che fanno emissioni di titoli, diciamo, non tradizionali, non sia una brutta idea in un periodo in cui bisogna aumentare le imposte e bisogna orientare l'intermediazione in un modo meno rischioso. Però queste cose vanno messe ex ante, non ex post in modo punitivo. Io la vedo un po' come un'azione pasticciata in cui l'amministrazione ha fatto già pasticci affrontando la crisi in un modo pasticciato. La vedo come un provvedimento anche un po' ipocrita, perché mentre si fanno queste cose con i tassi a zero, l'amministrazione sta sussidiando i profitti bancari in modo massiccio, quindi è tutto un gioco su una questione che il pubblico capisce molto meno. Credo che sia un momento molto delicato per la democrazia americana, che non riesce a fare le riforme. Hanno cercato di impostare una riforma della vigilanza e non riescono, ci sono lobby molto forti che condizionano il congresso, l'amministrazione non riesce a fare ordine in questo processo e ricorre a queste uscite che secondo me avranno grandissime opposizioni. Alla fine probabilmente scarso risultato. Quindi lei dice l'idea è buona, il tempo sbagliato e bisogna vedere se ci riuscirà. Professor Masciandaro, tante volte già nel corso di quest'anno l'abbiamo ascoltata sempre più perplesso dire qui le regole non cambiano. Credo anche a lei. Di fronte a una realtà che con gli interventi dello Stato ha visto ulteriormente concentrarsi l'intermediazione finanziaria. Io ricordo che oggi sul mercato americano, se andiamo a vedere il totale dei depositi, oltre il 40% è nelle mani di quattro banche: JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo hanno più del 40% dei depositi. Se andiamo a vedere gli assets totali, cioè andiamo a vedere gli attivi patrimoniali, addirittura il 45% del totale degli attivi patrimoniali sta in quattro banche, sempre JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo. Quindi l'effetto di questa ondata di sostegni da una parte e di fusioni per impedire che alcune delle due vecchie banche di investimento, delle 5 Big Five, crollassero, è stato di una concentrazione ulteriore e oggi si dice questi non si sono solo concentrati, ma fanno il più degli utili con l'attività di prima. Andiamo a vedere poi nei dati che ci consente di vedere la Banca Centrale Europea, vediamo la stessa cosa, vediamo che oggi rispetto ai ricavi, rispetto a un 6% che le maggiori banche europee dichiaravano dall'attività di trading, siamo nel terzo trimestre 2009 al 16%. Allora la domanda che le faccio è: se il mercato è stato instradato a questo tipo di orientamento, in realtà anche per conseguenza dell'intervento dello Stato, che senso ha oggi che lo Stato intervenga senza aver cambiato le regole dicendo vi tasso e così cambierete? Lei che ne pensa? Lei ha ricordato che negli ultimi due anni ho continuato a mostrare preoccupazione su quello che non si faceva. Questo provvedimento aumenta ulteriormente la mia preoccupazione perché è l'ennesimo cavallo di Troia. Mi spiego, il politico americano e anche quello europeo aveva una strada maestra per mettere a frutto le lezioni della crisi. Era una strada maestra che aveva almeno quattro punti cardinali: creare mercati per gli strumenti non regolati, variare le regole del gioco sugli intermediari, cambiare la vigilanza e cambiare le regole contabili. Rispetto a questa strada maestra, il politico sta scegliendo piano piano sta scegliendo un'altra strada, quello di aumentare l'ingerenza della politica all'interno del sistema finanziario. Il provvedimento annunciato da Obama ha la lungimiranza di una talpa cieca. Non credo che avrà alcun effetto rispetto a quello che è il vero problema per i contribuenti, non sono americani, evitare che le crisi si ripetano. La mia preoccupazione è che questa scorciatoia non è solo americana, ma è anche europea, come mostra quel pasticciato progetto che sta andando avanti nelle aule. E devo dire che anche in Italia dovremmo fare molta attenzione. Il Parlamento sta facendo delle audizioni, io ripeterò queste cose la prossima settimana al nostro Senato. Noi siamo periferia, ma rischiamo come al solito di prendere i cocci come periferia di questa inazione europea e poi internazionale. All'avvocato De Nicola, poi appena siamo reduci dall'interruzione pubblicitaria, devo fare una richiesta. Noi siamo sommersi da SMS che dicono, chi ci ascolta, che pure non dovrebbe essere davvero un pregiudizio negativo nei confronti dell'impresa bancaria o delle altre imprese, dice: oh, guardate che noi abbiamo l'impressione che questa roba serva più che non serva. Cioè in realtà Obama tocca un punto molto popolare, perché la gente dice i tassi che chiedono a noi non corrispondono ai tassi zero con cui le banche prendono i denari. L'avvocato De Nicola, vedremo dopo quanto e se la tassa al banchiere serve oltre che essere popolare. Eccoci tornati in studio. Obama tassa le banche, che ha salvato coi miliardi del contribuente, perché dice ai banchieri: voi non capite che cosa la gente e l'impresa si aspetta da voi, non che continuate a fare come prima, ma che fate più attività di impieghi ordinari, perché i denari ve li diamo a poco costo, praticamente negativo, e voi invece questo non lo capite. Quindi maxi tassa sulle imprese per indirizzarle a fare attività di tipo diverso e osceni bonus sui quali state attenti, perché io vengo a prenderveli. Una telefonata e poi andiamo a chiedere all'avvocato De Nicola che cosa ne pensa. Cominciamo con Paolo da Palermo. Prego Paolo. Buongiorno a tutti e auguri di buon anno. Questa è la prima volta che ho l'occasione di parlare con voi quest'anno. Allora, io penso che la decisione di Obama non è una decisione presa così come è stato detto poc'anzi e pasticciatamente, ma è sempre una decisione di un presidente degli Stati Uniti e penso che sia una decisione molto ponderata. Però in quale senso? Secondo me nel senso di tenere a bada, calmi, dare l'illusione al popolo che c'è qualcuno che pensa per noi. Invece non è così. Io penso che questa qua, più che una decisione per bacchettare le banche, è una decisione più per tenere a bada calmo, calmi i popoli. Cioè Paolo, lei dice che è ponderata, ma mi sta dicendo che è demagogica, in altre parole, cioè che serve a tenere buoni, certo, i risparmiatori. Mi scusi, perché se la demagogia la fa il presidente degli Stati Uniti, non viene tacciata come demagogia, ma se la faccio io, è demagogia. Ecco Paolo, io su questo la ringrazio perché invece credevo dall'inizio della sua telefonata, ed era del tutto legittimo come testimoniato dalla maggioranza degli sms che sto ricevendo, che lei dicesse questa è una cosa sana, c'è qualcuno che in realtà interpreta l'opinione della gente. Lei dice, sì, l'impressione è che lei interpreti, ma attenzione che demagogia. Avvocato De Nicola, lei che ne pensa? Beh, per alleggerire diciamo il dibattito, riferirò questa perfida battuta che circola e che viene attribuita a D'Alema, il quale dice: il dramma per il Partito Democratico è che i giudici hanno ragione su Berlusconi, ma Berlusconi ha ragione sui giudici. E qui è più o meno la stessa cosa: Obama ha ragione sui banchieri, ma i banchieri hanno ragione su Obama, perché questa tassa viene presentata come una sorta di restituzione di quanto il popolo americano ha dato alle banche, e già questo è qualcosa di sbagliato, perché la tassa colpisce indifferentemente chi ha ricevuto i soldi e chi non ha ricevuto i soldi, chi li ha restituiti e chi non li ha restituiti, quindi già questo è un qualche cosa di sbagliato. E non colpisce invece molti che ne hanno ricevuti tanti, dall'industria dell'auto a Fannie Mae, eccetera, eccetera. Ma soprattutto la prima grande promessa che fece Obama era quella di farsi restituire tutti i soldi e di tassare i bonus della famosa assicurazione AIG, promessa che è da un anno che è ancora ferma e ogni tanto qualcuno se ne ricorda, ma è ancora lì. Quindi ha ragione l'ascoltatore, è demagogia ponderata, nel senso che serve come arma per le elezioni di midterm. Riprendo una cosa che ha detto prima il professor Masciandaro. Vediamo cosa è successo in una situazione simile per altri attori, cioè le società di revisione. Quando successe lo scandalo Enron, per chi se lo ricorda, quasi 9 anni fa, le società di revisione erano più o meno nella stessa situazione delle banche. Erano poche, facevano molti soldi, erano anche loro Big Five, come erano Big Five le grandi investment bank. Qual è stato il risultato? Si sono ridotte a 4, fanno più profitti di prima, ma almeno fu messo mano alle regole. Regole che possono essere giuste o sbagliate, la Sarbanes-Oxley ha degli eccessi, ma fu messo mano alle regole. Quindi è vero che le società di revisione sono rimaste 4 e fanno molti più soldi di prima, ma casi eclatanti come quelli che avvennero per Enron e che portarono alla dissoluzione di Arthur Andersen, non ce ne sono più stati. Le regole, ripeto, alcune buone, alcune meno buone, ma fu fatta una riforma complessiva del mondo della società di revisione, dei controlli contabili. Qui invece c'è la concentrazione, fanno più soldi, si sparacchiano tasse che i mercati hanno già, diceva il Financial Times, shrugged off. Le banche, nonostante l'annuncio di Obama, il settore finanziario è andato su di 1,5% Wall Street, perché tutto sommato hanno fatto i loro calcoli, è un 5% dei profitti sopportabilissimo che può essere peraltro ribaltato sui clienti e così via. Quindi le banche tutto sommato appunto hanno shrugged off l'annuncio. Quello che manca è una politica regolamentare che sia ponderata e non un'intromissione della politica che decide dal suo pulpito illuminato dove le banche devono investire, cosa bisogna tassare, qual è l'attività bancaria buona e quella cattiva e così via. Questo è un qualche cosa che è proprio il dilemma del regolatore: si immagina una cosa, dopodiché vede che quello che si è immaginato non funziona, per rimediare fa un'altra regola, la quale altra regola ha delle conseguenze inintenzionali, e per rimediare a queste conseguenze inintenzionali se ne fa una e non si finisce più. E quindi si continuano a dare segnali, uno dei quali, uno dei quali dopo l'altro, voglio dire, continuano a dare segnali contraddittori e che non implicano affatto che gli attori poi si adeguino al disegno dell'illuminato politico. Una domanda da Fabio da Roma, che poi giriamo immediatamente al professor Bruni. Prego, Fabio da Roma. Ah sì, grazie, buongiorno e grazie dell'ospitalità. Io, seguendo un pochettino l'evoluzione della crisi, anche da prima, diciamo dal 2006, mi sto facendo così un'idea, una paura, quindi volevo domandarlo agli ospiti. Se prima della crisi le banche, si diceva che le grandi banche americane erano troppo grandi per poter essere lasciate fallire, la paura mia è che adesso quelle poche che sono rimaste siano diventate troppo grandi per essere salvate, anche a causa del deterioramento dei conti pubblici degli stati. Grazie Fabio, e soprattutto grazie anche per la pazienza, perché sentiamo che c'è un rumore di fondo, sei impegnato nell'attività paterna, per così dire. La domanda è sul too big to fail, come si dice in gergo troppo tecnico, come si fa con gli intermediari quando sono così grossi e bisogna salvarli per forza? Io ricordo che il problema non è solo americano, ricordo che in Europa ne abbiamo dovuti salvare parecchi, e la drammatica realtà che ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, che magari non sono tecnici della materia, è che si tratta di istituti che hanno le loro attività in più paesi dell'Unione Europea. E quando si è trattato di salvarle, non avendo noi regole comuni, perché in questo sono le diverse articolazioni della Banca Centrale Europea, ma a livello nazionale, che sono intervenuti con criteri diversi, noi abbiamo avuto un coordinamento di fatto, ma di fatto quando si è trattato di grandi istituti europei, Fortis, ING olandese e così via, i singoli pezzi dei salvataggi nazionali hanno seguito criteri diversi, e questo significa che anche qui ci abbiamo delle regole a cui mettere mano in Europa, perché dovesse ricapitare tra 3 mesi, risaremmo punto e a capo di fronte all'assenza di regole costituite. Lei che dice, professor Bruni? Certamente l'ascoltatore ha ragione, la dimensione fra l'altro di queste banche che viene colpita, verrebbe colpita da questa imposizione se fosse passata, è stata causata da pressioni politiche, cioè le grosse fusioni sono state costrette in parte dalla politica. Bear Stearns è stata assorbita da JP Morgan Chase, Merrill Lynch da Bank of America, in tutti i casi la pressione politica è stata molto forte, quindi la crisi ha finito a peggiorare la questione del too big to fail, per trattare la quale occorrono delle nuove regole. Se mi dà un minuto, dedico la mia fiducia nella produzione di queste regole. Io sono veramente un po' preoccupato sul funzionamento delle nostre democrazie, diciamo che hanno questo vincolo elettorale così forte e così continuo. Negli Stati Uniti c'è nel Senato un personaggio molto interessante che si chiama Dodd, che è il presidente della commissione, diciamo, finanziaria del Senato. E che non si ricandida. Esatto, ha annunciato qualche tempo fa che non si sarebbe ricandidato. E io, quando ho sentito questo, lui ha avuto una funzione molto attiva, molto bipartisan, cercando effettivamente di portare al consenso senza populismi, diciamo, i due partiti sulla riforma sanitaria, e aveva cominciato a lavorare anche seriamente sulla riforma finanziaria. Uno può essere d'accordo o meno con le sue idee, ma insomma lavorava con uno spirito diverso da quello, diciamo, della faziosità di parte, della ricerca di consenso. Io, quando ho saputo che lui non si ricandidava, ho detto: oddio, peccato, perdiamo un personaggio che in qualche modo poteva dare. Poi ho letto le analisi un po' più approfondite e ho scoperto che invece gli analisti politici più smart sono contenti, perché dicono: siccome questo non si ricandida più, sarà più libero di lavorare in questi ultimi tempi in modo non condizionato. Ora, secondo me, quando siamo a questi punti, siamo alla canna del gas con la democrazia parlamentare elettorale. Cioè, dobbiamo trovare un sistema se oggi la rinuncia di una persona ad essere eletto, essendo questa, avendo questa persona una certa stima, che costituisce una buona notizia, a cercare così una buona notizia, vuol dire che il meccanismo democratico comincia a non funzionare più, quindi pensiamoci su. Vuol dire che per diventare eletto è implicito, o anzi esplicito, che si debba poi remunerare così tanti interessi impropri che ti ci hanno portato a essere eletto, che tutto sommato, se ci capisci sull'argomento, è meglio che tu non sia eletto, così potrai dare un apporto meglio. Devo dire che da alcuni anni io sono arrivato a conclusioni più o meno analoghe, ma detto questo, questa è la mia opinione personale. Altri ascoltatori per i nostri ospiti. Innanzitutto io invito gli ospiti a non dimenticare che però la gente la pensa in maniera diversa. La gente questa intervista di Obama piace molto. Sentiamo innanzitutto che cosa ci dice Marco da Bologna. Prego Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Niente, il mio era un pensiero, una riflessione se vuole positivista, nel senso che io ieri un pochino a sentire quello che ha detto Obama al congresso eccetera eccetera ho avuto la pelle d'oca, nel senso che finalmente un pochino di questo populismo ben venga, nel senso che poi la rivoluzione culturale molto spesso, secondo me almeno, non si fa a tavolino nei salotti borghesi, ma si fa dando un filone, anche se vuole un input di onestà, che secondo me manca molto. Secondo me Obama l'ha fatto anche perché gli Stati Uniti, dal punto di vista internazionale, devono riacquistare anche un po' di credibilità. Cioè, chi è che va ad investire in un paese dove ognuno fa quello che vuole? E succederà così anche da noi quando finirà tutto questo frastuono politico. Grazie Marco, ma si lasci tirare le orecchie, perché questo è un intervento, diciamo, che dà una lettura positiva, non positivista. Usiamoli con precisione i termini della lingua italiana, perché il positivismo è un'altra cosa. Non faccio il maestrino, però mi do a mia volta la bacchetta sulle dita, perché capita tante volte anche a me, quindi è la maniera un po' impropria da maestrino per chiedere scusa anche a voi. Un brevissimo intervento prima dell'interruzione pubblicitaria, poi facciamo dare la risposta ai nostri ospiti con Umberto da Siena. Prego Umberto. Buongiorno, volevo notare due piccole cose. Primo, l'Europa comunque ha delle regole che si chiamano Basilea 2, che gli Stati Uniti non ha, e quindi volevo sapere anche dai suoi ospiti che incidenza ha la Basilea 2 rispetto alle regole americane. Rispetto a Basilea 2 c'è un Basilea 3 annunciata da Mario Draghi, ed è di quello che poi ascolteremo i nostri ospiti cosa ne pensano. Seconda sua domanda? La seconda era: la Federal Reserve per prima ha portato i tassi di interesse vicino allo zero, non ha avuto nessun effetto positivo sulla società e sull'industria dell'America. Quindi di seguito la BCE ha fatto lo stesso in un tempo successivo e non ha avuto lo stesso risultato. Domanda? Perché? Perché le banche, se non guadagnano, non prestano i soldi. E quindi se i prestare i soldi... Ok, la devo interrompere perché ci sono le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci, tornati in studio, stiamo parlando degli effetti delle dichiarazioni di Obama sui bonus, sulla scena dei banchieri e soprattutto su questa maxi tassa che dovrebbe gravare sui 50 maggiori istituti bancari americani, quelli che hanno attivi superiori ai 50 miliardi di dollari, in maniera differenziata per tipo di attività e per tipo di attività da cui si ricavano gli utili e i ricavi bancari, punite naturalmente quelli che fanno più finanza per la finanza e incoraggiati invece quelli che fanno impieghi tradizionali. Naturalmente di queste 50, più di un terzo poi sono banche mica americane, ma che sono presenti e importanti nel mercato americano, ma che sono europee o asiatiche. Quindi ci sarà un problema anche poi di coordinamento degli effetti di questo provvedimento impositivo, sempre che il Congresso appunto lo approvi, perché abbiamo sentito che insomma la lobby ha la sua forza nel Congresso americano, e sempre poi che questa misura sia poi positiva, perché tra i nostri esperti, modestamente anch'io mi aggiungo, insomma qui i dubbi prevalgono su invece sugli effetti di facile consenso. Ci sono state anche domande però su altri aspetti. C'è l'aspetto che riguarda Basilea 3, le misure annunciate dalla Financial Stability Board sulla ricapitalizzazione da Mario Draghi come presidente del Financial Stability Board. Due G20 ci attendono quest'anno molto importanti, uno a maggio e uno a novembre, in cui Mario Draghi riferirà sull'avanzamento della ripatrimonializzazione delle banche. Ieri c'è stata un'audizione parlamentare, lo ricordo, in cui il direttore generale di Confindustria, il professor Giampaolo Galli, ha ammonito anche politici italiani, ma parlava rivolgendosi alla Banca Centrale Europea e indirettamente a Mario Draghi, dicendo: state attenti, perché questi coefficienti di ripatrimonializzazione delle banche, se servono a un fine utile, cioè dare più forza patrimoniale alle banche che erano poche patrimonializzate, dall'altro potrebbero avere delle conseguenze di ulteriore restrizione degli impieghi, proprio mentre nel 2010 le imprese continuano a boccheggiare e quelle che sono più esposte sono magari quelle che avevano investito di più, facevano più valore aggiunto, ci servivano di più per reggere nell'export italiano. State molto attenti, perché temiamo che gli effetti della ripatrimonializzazione li vedremo con ancora meno denari dati alle imprese. Professor Masciandaro, lei che ne pensa? Ma io sono rimasto molto colpito e interessato da due interventi dei nostri ascoltatori. Li metto insieme. Un ascoltatore ha detto l'intervento non è pasticciato, anzi è pensato a tavolino, e un secondo ha detto ho avuto i brividi quando ho sentito la politica. Ecco, li metto insieme perché nessuno ha detto che l'intervento di Obama è improvvisato, è assolutamente pensato a tavolino, è razionale perché, e qui vengo ai brividi, perché si tratta di utilizzare uno stereotipo per raggiungere un obiettivo, cioè convincere gli elettori. Quello che noi qui mi sembra stiamo tutti cercando di dire è che elettoralmente e anche ideologicamente è assolutamente giusto e razionale. Il problema è che probabilmente quel provvedimento non va bene da altri punti di vista, che è quello che poi dovrebbero interessare noi, l'orizzonte di più lungo periodo, evitare che le crisi si ripetano. Quindi è molto interessante vedere come il politico non è mai cattivo o buono, può essere più o meno intelligente, e l'amministrazione americana fino a prova contraria lo è, e bisogna capire quali sono i suoi obiettivi. Qui l'obiettivo è il consenso, e lo si ricerca attraverso scorciatoie che, la paura è, non colpiscano invece quello che dovrebbe essere il vero obiettivo negli Stati Uniti come in Europa. Avvocato De Nicola, quando lei ha letto insieme a tutti noi qualche settimana fa Lloyd Blankfein, che è il capo di Goldman Sachs, cioè uno dei banchieri da una parte più fortunati del mondo, perché sono bravi, sono quelli che fanno più utili, sono usciti rafforzati dalla crisi, non indeboliti, dall'altra dare in una testimonianza una definizione un po' sprezzante, non so quanto popolare dal suo punto di vista, perché dice è inutile che ci rompete le scatole, perché we are doing God's work, ha detto, noi facciamo il lavoro di Dio in terra. Ecco, questa cosa che i banchieri, poi i capi come Jamie Dimon, cioè i capi di queste quattro banche americane, hanno questo atteggiamento quasi volutamente antipopolare, dal suo punto di vista come si può spiegare? Cioè, in realtà fanno davvero God's work, il lavoro di Dio, e dobbiamo essergli grati, e tutto sommato i loro profitti, i loro utili sono utili e serviranno a uscire meglio dalla crisi, oppure stanno esagerando secondo lei? Ma questo ha molto a che fare con una delle domande iniziali che lei ha fatto, vale a dire le banche sono dei servizi pubblici o sono delle imprese che fanno profitto? La risposta dal mio punto di vista è che sono delle imprese che fanno profitto, le banche si sono sviluppate da sempre, da quando esiste un mercato organizzato di capitali, come imprese che fanno profitto, ma non andiamo dietro fino ai banchieri fiorentini, ma ancora più indietro, fino ai banchieri non organizzati sistematicamente dell'antichità. Quindi le banche sono imprese che fanno profitto. Uno dei problemi esistenti negli Stati Uniti è che le banche soprattutto sono molto, forse troppo, in mano al management. Il problema vero non è che la politica interferisca con quanto fanno le banche, ma il problema vero è che gli azionisti sono completamente staccati dall'operatività delle banche. Perché? Perché si tratta di public company, quindi, per chi ci ascolta, di società ad azionariato diffuso con milioni e milioni di azionisti, oppure con fondi che hanno piccole percentuali, che quindi non sono interessati alla governance, ma sono interessati semplicemente ai risultati trimestrali, e quando anche non sono molto contenti del livello dei bonus che si assegnano questi banchieri di Dio, che a noi italiani fanno venire in mente altre cose, quando anche non sono contenti non hanno né gli strumenti giuridici, perché solo adesso si fa avanti la mozione per dare il parere da parte dell'assemblea degli azionisti, negli strumenti giuridici, nell'interesse a perdere troppo tempo. Quindi uno dei problemi che c'è negli Stati Uniti, che c'è meno in Italia, perché in Italia gli azionisti sono più forti, che siano le fondazioni bancarie, che siano le famiglie, che sia il governo, gli azionisti in Italia sono più forti, quindi incidono di più sul management. In America il potere, lo chiamano l'amministratore delegato imperiale, il potere del management è squilibrato rispetto al problema dell'azionista. Domanda finale, no, cosa che non viene affrontato. Esatto. Allora, domanda finale invece per il professor Bruni. E per questo, per questa particolarità che ricordava De Nicola, qui gli azionisti contano di più, poi al di là di che giudizio dare su quel particolare azionista che sono le fondazioni bancarie, ma è per questo che in Italia, in apparenza o in realtà, sia il problema dei bonus, sia il problema dei tipi di attività non tradizionali che prevalgono su quelle tradizionali è meno grave che altrove, sempre che sia meno grave secondo lei, domanda? Anche per questo c'è un maggiore controllo e in America l'arroganza dei banchieri che non manca e che è alla radice di questo populismo è dovuta effettivamente a una governance societaria che vede il management in una posizione eccessivamente fuori controllo. Ricordiamoci però che in America c'è anche nella popolazione ormai un'inimicizia nei confronti delle autorità, in particolare della banca centrale. Proprio ieri è stato rivelato con chiarezza una serie di omissioni che la banca centrale ha fatto nel controllo proprio dei subprime loan. E l'ha fatto Sheila Blair alla testa di un'altra autorità. Certo, un'altra autorità, è un po' un bisticcio fra di loro, ma le porcherie vengono fuori. Allora bisogna che insieme ai banchieri si tassino anche alcuni di questi burocrati, e il fatto che la Fed non abbia, diciamo, nessuna esplicita responsabilizzazione e punizione finisce a rendere il processo più... Interrompo il professor Bruni perché questa è una delle conclusioni che io condivido di più. Bisogna introdurre per i regolatori delle misure incentivo per ottenere dei risultati efficaci sugli obiettivi di mercato invece che entrare nei singoli affari, ma anche delle sanzioni quando ottengono il risultato di non aver vigilato e fare disastri, e questo non c'è né in America né in Europa. Bene, abbiamo parlato troppo poco di Italia, ma alle 12 con Salva Danaio, la trasmissione condotta dalla nostra ottima Deborah Rosciani, vi invito a rimanere in ascolto perché parleremo della commissione di massimo scoperto, che è un problema aperto ancora per moltissimi voi risparmiatori con le banche italiane. Deborah ne parlerà con Fabio Picciolini, che è segretario nazionale della Diconsum, Mauro Igolini, che è responsabile dei rapporti con l'Associazione dei consumatori di Banca Intesa San Paolo, quindi banca e consumatori. Bene, l'appuntamento con me è a lunedì mattina, grazie, e scusatemi per altre che non abbiamo mandato in onda, grazie in regia Paolo Corleone e Valerio Rocchetti, grazie in redazione Alessandro Marcatulli e Pedro Guerrera. La linea al giornale radio a lunedì.